get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao, siamo Lucilla e Pina. Avevamo deciso, dopo tante trasmissioni, troppo parlate, di dedicarci un po' di più alla musica e al divertimento. Ma pare che non si possa proprio abbassare la guardia, perché il mondo, così come è organizzato dagli uomini, non lo permette proprio. Ci riferiamo alla fatidica sentenza della Corte di Cassazione, quella più meglio nota come jeans e stupro. Eccola qua. Immaginate ora sti vecchi bacocchi praticamente con l'ermellino addosso che leggono la motivazione della sentenza. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata merita l'annullamento perché carente di adeguato e convincente apparato argomentativo. È certo che a carico dell'imputato sussistono le reiterate accuse formulate dalla Pagliuca. Ma considerate le proteste di innocenza dell'imputato, il quale ha sostenuto che la ragazza era stata consenziente al rapporto sessuale, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere ad una rigorosa analisi in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla Pagliuca. Mentre invece ha affermato la colpevolezza dell'imputato, valorizzando circostanze di fatto che ben si conciliano con la versione dei fatti rappresentata dal cristiano e minimizzando o omettendo di valutare altre circostanze che mal si conciliano con la denunciata violenza carnale. La sentenza afferma che le dichiarazioni rese dalla Pagliuca sono da ritenere attendibili perché costei non aveva motivo alcuno per muovere contro il cristiano un'accusa calunniosa. Una tale considerazione non può condividersi sol che si consideri che la ragazza potrebbe aver accusato falsamente il cristiano di averla violentata per giustificare con i genitori l'amplesso carnale avuto con una persona molto più grande di lei per età e per di più sposata. Amplesso che non si sentiva di tener celato perché preoccupata dalle possibili conseguenze del rapporto carnale. Peraltro, una tale ipotesi non appare inverosimile alla luce del comportamento tenuto dalla Pagliuca dopo i fatti. Costei raccontò ai genitori quanto le era accaduto non già appena tornò a casa, sebbene i predetti le chiedessero cosa le era successo in quanto era visibilmente turbata, ma soltanto la sera, dopo aver assistito presso l'autoscuola alla lezione di teoria. La Corte di Appello giustifica un tale ritardo sostenendo che la Pagliuca presumibilmente provava vergogna o si sentiva in colpa. Ma una tale argomentazione non è convincente. Non si vede infatti quale vergogna o senso di colpa la Pagliuca potesse avvertire se effettivamente vittima di una violenza carnale, data la gravità di un tale fatto, peraltro commesso dal suo istruttore di guida, sulla cui autovettura si era trovata per effettuare la programmata esercitazione di guida. Parimenti censurabile è la sentenza allorché afferma che la Pagliuca fu realmente vittima della denunciata violenza carnale, dato che è certo che durante l'amplesso aveva i jeans tolti soltanto in parte, mentre se fosse stata consenziente al rapporto carnale avrebbe tolto del tutto i pantaloni che indossava. Un tale rilievo non può condividersi perché sarebbe stato assai singolare che in pieno giorno, il fatto avvenne verso le ore 12-12.30, in una zona che, seppur isolata, non era preclusa al transito di persone. La pagliuca si denudasse del tutto perché era consenziente all'amplesso. Deve poi rilevarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans a una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di un'operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa. Anche su altri punti la sentenza risulta carente di convincente motivazione. Sul corpo della pagliuca e del cristiano non sono stati riscontrati segni di una colluttazione tra i due, o comunque di una vigorosa resistenza della ragazza al suo aggressore. La Corte d'Appello al riguardo si limita ad affermare che per la sussistenza del reato di violenza carnale non è necessario che l'autore del fatto sottoponga la persona offesa ad atti di violenza e che comunque nel caso in esame la pagliuca non aveva opposto resistenza temendo di subire gravi offese alla sua incolumità fisica. Ma al riguardo è da osservare che è istintivo, soprattutto per una giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla e che è illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certe più gravi offese alla propria incolumità fisica. La sentenza impugnata, infine, non chiarisce come si concilia con l'asserita violenza carnale la circostanza che la pagliuca non tentò di fuggire appena il cristiano fermò l'autovettura e manifestò i suoi propositi, così come non è una plausibile spiegazione che il comportamento della ragazza che dopo la consumazione del rapporto carnale si mise alla guida dell'autovettura. In sentenza viene precisato che la pagliuca aveva interesse a tornare subito a casa, ma la Corte d'Appello ha omesso di considerare che è assai singolare che una ragazza, dopo aver subito una violenza carnale, si trovi nelle condizioni d'animo che le consentano di porsi alla guida di una vettura, autovettura, con accanto il suo stupatore, soprattutto se, come nel caso in esame, essendo inesperta di guida, deve pilotare l'autovettura seguendo i consigli e le istruzioni di chi pochi momenti prima l'ha violentata. Ne consegue che la sentenza impugnata risulta affetta da motivazioni carente e illogiche e pertanto merita l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli. What makes me start? I can start clean. The heart is the first one. The praise of strangers. I fatti si commentano da soli. Dal canto nostro, per quel che riguarda la giustizia degli uomini, abbiamo più volte espresso le nostre riserve. Ma in Cassazione quante donne ci sono? Ecco le proporzioni. 10 donne magistrato e 410 giudici maschi, che non perdono occasione, la sentenza l'avete sentita, per ricordarci che dobbiamo sottostare alle loro regole. Libertà assoluta di accesso incondizionato al nostro corpo, attraverso una sessualità subalterna e violenta, è il sistema di controllo che i maschi usano e abusano sulle donne. Big daddy said it's okay, holding up a love. Don't like it much, but that's the way it goes. Big talker, thrill stalker, sitting on the time, deciding every day who's next in line. Sick bitch, raise your head, looking for a lover. Sick of all the chills, time for another. I believe you, and I believe you. Put your head on my lap. Don't you know that's where it's at? Everybody's coming. La dottoressa Soggio, una delle 10 donne magistrato della Cassazione, ha dichiarato alla stampa: ma è una lotta impari, soprattutto per quel che riguarda il rapporto tra i sessi. Il diritto lì dentro, e parliamo sempre della Cassazione, è saldamente in mano agli uomini, molti dei quali ragionano in modo ormai del tutto distaccato dalla realtà. E dirò una cosa ancora più grave: l'enorme numero di sentenze punitive nei confronti delle donne, il diritto di famiglia ne vanta a decine, mi porta a pensare che dietro ci sia una solidarietà tra maschi ben dura a morire. Questo su Repubblica dell'11/2/99. Noi ci sentiamo di commentare. Ma siamo sicure che i giudici maschi siano distaccati dalla realtà? Di quale realtà parliamo? La loro? E allora ne sono legatissimi. opportunity. And we still got a move. In this land of heartless bodies. In the land of heartless bodies. And we still got a change. We've got to change. Boy and woman, you create. Woman, you create. Senza piangersi addosso dunque, ma per rinfrescarsi un po' la memoria. Solo nel 1963 abbiamo potuto esercitare la magistratura. Solo nel 1973 ai mariti non è stato più permesso leggere la posta delle mogli. Solo nel 1975 la moglie non è stata più obbligata a seguire il marito nel suo domicilio. Solo in quegli anni si rendeva possibile ad una donna riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio. Capite perché siamo contro il matrimonio e la famiglia? Solo nel 1977 è arrivata la legge sulla parità di trattamento sul lavoro tra donne e uomini. Un capitolo a parte spetterebbe alla questione dell'autodeterminazione, ma su questo preferiamo sorvolare. Wanna go home through the street, but there's a feeling inside your head. Every noise is frightening, even the gate is grinding. They are. What you gonna do when you walk the street at night? What you gonna do? Why the spines instead of love? un'ultima cosa su questa annosa questione e poi basta, eh? Ma un'avvertenza la dobbiamo dare. Come dire, precauzioni d'uso. Signore, signorine, donne di tutte le età, razze, professioni, religioni, eccetera, se proprio vi troverete nella condizione di voler denunciare uno stupro, ricordatevi di dichiarare: ci aveva tutta da ginnastica, quella vecchia, quell'elastico rotto. Avete sentito bene, questa è la sigla della musica indipendente e fino adesso i pezzi che sono andati in onda sono tutti di musica indipendente. Abbiamo avuto Language or the Kiss da Swamp Ophelia delle Indigo Girl, The Big Talker della The Murder, Hard Times di Kick La Luna, Dark Street di Kick La Luna e ancora About Nothing di The Murder. E dopo aver ascoltato l'inglese perfetto di Lucilla, vi voglio ricordare che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Russa all'interno del martedì femminista autogestito. Se volete contattarci potete telefonare in radio tutti i martedì allo 06 49 17 50, oppure telefonarci al Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B, telefono fax 06 6864 201. Vi ricordiamo che ci potete trovare ogni lunedì dopo le 20 oppure lasciarci un messaggio in segreteria. Potete scriverci anche alla posta elettronica clr@hotmail.com. gli appuntamenti. Sabato 27 febbraio, al centro di documentazione del Cassero, piazza di Porta Saragozza 2 a Bologna, con orario d'inizio alle ore 10.30, si terrà la riunione del Forum delle Lesbiche con il seguente ordine del giorno: elezione delle garanti, definizione ultima dei contenuti del manifesto sulla visibilità, definizione ultima dei criteri di adesione alla campagna da parte di soggetti esterni al Forum, varie ed eventuali. Per informazioni, segreteria del Forum delle Lesbiche, telefono fax 055 47 65 57. Dal 25 al 28 febbraio a Bologna si svolgerà la 7ª edizione di Immaginaria, festival del cinema lesbico e femminista con pellicole autoprodotte da tutto il mondo. Ci saranno spazi di dibattito, mostra di arti visive e mostra poetica. La sera del sabato, grande festa immaginaria allo Chalet delle Rose, in via Porrettana 68 a Pontecchio Marconi. Appuntamento quindi al cinema Nosadella, in via Nosadella 19, da giovedì 25 febbraio, dalle 19 per la serata inaugurale. Il 5, 6 e 7 marzo intervenite alla Casa Internazionale delle Donne e al Centro Femminista Separatista di Roma, in via San Francesco di Sales 1B, dove si terranno iniziative per l'8 marzo. Durante la prossima trasmissione vi daremo tutte le informazioni. So many things that a river could be filled with my tears. How we want life could the wind burn a direction. But you don't believe that a broken heart could heal. Even now, even soon, I realize I go through changes like Sister Moon. And I ask myself how many rivers I have to cross. I fell in love with how many lips I have to kiss till I find someone I can stay with. Now in a while, could it all be so easy? Cause this river carries my blues away. Now in a minute I see things I have to change in my life. and the other things I must accept as they are. Even now, even soon, I realize I go through changes like Sister Moon. And I ask myself how many rivers I have to cross, how many hearts I fell in love with, stupende Kick la Luna con River Moon. Viva la pa pa pa pa col pomo pomo pomo pomodoro, viva la pa pa pa pa che è un capo popo popo po lavoro, viva la pa pa pa pa pa col pomo pomodoro. Era tanto che non vi facevamo ascoltare una ricetta di cucina, ma non ci siamo mica dimenticate della cura del corpo. E infatti, eccovi a voi, da Pina, la crema Josephine Baker, tratta dal libro di cucina di Alice B. Toklas. Allora, sbattere 3 uova con 3 cucchiai di zucchero. Mescolare 2 cucchiai di farina con un po' di latte e aggiungere altre 2 tazze di latte. Mescolare al composto di zucchero e uova e passare al setaccio. Aggiungere 2 cucchiaini di kirsch e 3 cucchiai di liquore raspai. Aggiungere 3 banane tagliate a fettine sottili e alcuni minuscoli pezzetti di scorza di limone. Mescolare bene, versare in una pirofila e cuocere nel forno portato a 200 gradi per 20 minuti. Servire fredda. Probabilmente bisognerà trovare un liquore che sostituisca il raspail, non facile da reperire. Buon appetito con Josephine Baker e con il coordinamento lesbiche romane. Dal libro di poesie di Patrizia Cavalli. Poco di me ricordo, io che a me sempre ho pensato. Mi scompaio come l'oggetto troppo a lungo guardato. Ritornerò a dire la mia luminosa scomparsa. I'll